naturalmente il colpo è arrivato anche alle cucine, così come è arrivato su tutta la città, su tutto il paese. Gran preoccupazione, però insomma prontezza anche di riflessi, quindi anche stare dentro quelle che sono un po' le norme, le indicazioni che venivano dai decreti, quindi dal governo, perché è importante per tutti, ecco. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di, intanto noi siamo basati tutto su volontariato, quindi non c'era nessuno pagato e c'era anche l'impossibilità di muoverci, no, come volontari, un contatto col comune, con la prefettura, con la questura, con un riconoscimento che siamo un servizio essenziale. L'organizzazione interna è stata naturalmente quella concordata anche con altre cucine di non preparare il cibo e consumarlo all'interno delle cucine, ma un asporto per evitare il contatto il massimo, il più possibile. Quindi oggi noi funzioniamo che le persone entrano una per volta, gli viene consegnato un pranzo da asporto che diversi consumano nella propria casa, nella propria abitazione, con tutto dentro, un primo, un secondo, la frutta, il pane, e c'era qualche dubbio rispetto all'accettazione anche di questo, no? O comunque anche alle regole strette che sono state imposte, che sono state suggerite. E invece c'è una reazione da parte dei nostri ospiti consapevolissima, insomma, sono stupito anch'io. Sta funzionando, anzi, stanno crescendo e aumentando le persone che si rivolgono alle cucine popolari. Volevo chiederti proprio questo, perché, come dire, uno si poteva immaginare un calo visto anche la situazione un po' difficile, invece no, stanno crescendo. Perché che cosa ha creato? Ci sono diversi quelli che vivevano anche per strada o comunque chi viveva di contatto con gli altri, no? Per sfangare e per avere un pranzo a mezzogiorno, la sera cosa faceva? Aveva un riferimento, il ristorante, l'amico, quello che gli veniva dato, qualcuno che gli dava i soldi. Girando oggi non vedi più nessuno per strada, quindi questi riferimenti, chiudendo anche tutti gli esercizi, c'è un vuoto, una mancanza di riferimento per queste persone. Quindi arrivano molte nuove persone che avevano riferimenti altrove, che oggi si rivolgono alle cucine. L'altra cosa è che noi continuiamo a fare, finché riusciamo e reggiamo, un primo, un secondo, no? In confezioni, vaschette d'alluminio che diamo, riscaldate, eccetera. Mentre, che so, purtroppo sia la Caritas ma anche all'Antoniano confezionano dei panini, e quindi la scelta fra il panino e una cosa completa, scelgono il pranzo completo. Ecco, quindi anche questo è un altro dato, quel 40-50 in più ci sono, e quindi facciamo fronte, ecco. Avete problemi di approvvigionamento o da questo punto di vista siete tranquilli? Per il momento no, anche perché molti ristoranti, camp soprattutto, che ha chiuso, ci ha rifornito di diverse cose, c'è stato proprio il non buttare nulla, no? Perché avrebbero fatto che cacciano via prossimi alla scadenza, le cose che hanno non si sa quando si riaprirà, avrebbero cacciato via. Invece ci hanno chiamato in molti e abbiamo avuto dei buoni approvvigionamenti, in sostanza. Le cucine popolari sono anche un luogo di socializzazione. L'umore delle persone, com'è l'umore? Si legge negli occhi una tristezza. Intanto è cambiato e modificato completamente il rapporto, no? Le 100 persone che si mettono in fila o che sono lì in attesa di entrare, un rapporto individuale, ma che deve essere fatto in fretta, anche perché non hai la possibilità di parlare, di discutere o comunque di scambiare una battuta, insomma, anche il non toccarsi, no? La pacca sulla spalla, si vede e si sente che manca nel rapporto, manca anche nel concetto stesso di cucina popolare. Quindi questo pesa molto nell'umore. C'era gente che veniva lì per fare anche le quattro chiacchiere, per stare con l'altro in tranquillità. Adesso è una toccata e fuga, no? Sì, è un clima un po' diverso, un po' triste, ma c'è una reazione, ma non, siamo ancora lontani, ecco, da riprendere il gusto e di esserci e di partecipare. Una situazione nuova per tutti, che dobbiamo far fronte. C'è stato un primo shock disorientato, che so, abbiamo anche per esempio di diverse persone di una certa età anche con delle patologie, questo sono rimasti a casa quasi tutte, però sono arrivati altri giovani, altri ragazzi, ragazze che sono rese disponibili a far volontariato. Abbiamo ridotto notevolmente le presenze, che so, Battiferro, tanto per citarne una, c'erano prima 20-25 persone, no, durante il giorno che servivano a tavola, che svolgevano i ruoli in cucina. Oggi in 6 devono fare il tutto e svolgere tutte le mansioni, anche sono ridotte anche quelle, anche come numero, anche per chi deve circolare meglio che non lo faccia, e ci basiamo su quelle persone lì, ecco.